B. Fra 10 anni. 1. Ascolta e leggi il testo. Piera avrà 18 anni fra 10 anni. A quell'epoca frequenterà l'ultimo anno di scuola superiore e dovrà scegliere un corso universitario da seguire. Sono sicura che dirà solo all'ultimo qual è la sua scelta. Magari ne parlerà prima con gli amici e con sua sorella Martina. Probabilmente con noi parlerà solo pochi giorni prima di fare l'iscrizione. Quando sarà iscritta all'università, forse preferirà abitare da sola o con sua sorella Martina. Martina abita in un appartamento vicino al centro da 3 anni. Tra poco Martina finirà di studiare e comincerà a cercare un lavoro. Dopo che avrà trovato un lavoro, forse avrà meno tempo per stare con Piera. Piera e Martina sono molto legate. Spero che anche quando saranno diventate molto più grandi e avranno formato le loro famiglie, resteranno sempre così unite.